La cittadella, che contiene nel suo ventre la cattedrale, è cinta da mura quasi inespugnabili, che nei secoli l'hanno tenuta separata dall'Emilia Rossa. Gli accessi in entrata e uscita sono regolati da stretta vigilanza. Fa parte della provincia. Solo sotto l'aspetto amministrativo, la cittadella è di per sé una sorta di capoluogo distaccato per un'estesa zona della pianura. La cittadella vanta una storia particolare, vive un'esclusione che si fa a forza identitaria. È ostinata nell'opporsi all'affermazione del fascismo. Vengono da altri comuni e altre province a manganellare. Nel 1922 il ceppo antifascista viene estirpato con una deportazione di massa. Mia nonna andò in prigione sotto Mussolini e prese le botte dai comunisti in un'altra fase storica. La cittadella è un'isola rosa nel mare rosso PC. Nel 1949 diventa il nucleo della scissione socialdemocratica che a livello nazionale è interpretata da Saragat. È un pericoloso paese laboratorio che rischiava di assurgere a modello per diffondersi nelle regioni del nord Italia. Mai con i fascisti, mai con i comunisti. La formuletta sintetizza la bolla storica che avvolge la cittadella e che verrà infranta solo dopo il crollo del sistema pentapartitico sotto i colpi di Mani Pulite. Verso destra, la grande storia ha archiviato le forze di derivazione comunista, la sua socialdemocrazia ha avuto ragione. Ma il modello non si fa a franchising, il virus non si diffonde in regione. La cittadella si arrocca in un isolamento dorato e fiorisce. Ha uno sviluppo industriale e sociale invidiato dagli altri comuni. È il paese più paese di tutti. I suoi viali nei mesi estivi sono affollati, come fosse una località di villeggiatura adriatica. Gli altri comuni sembrano moribondi e deserti. I nostri concittadini non se ne vanno nemmeno in agosto, temendo invasioni di stranieri e comunardi. Nel 1972 viene inaugurata la cattedrale dei condizionatori per auto, alla presenza di un sindaco che regna alcuni decenni e arriva al Senato della Repubblica. La cittadella vive un'autarchia virtuosa, centellina certificati di residenza, gli armigeri alzano il ponte levatoio solo dopo estenuanti verifiche. Interpreta le esigenze della gente comune con una sensibilità che solo molti decenni dopo la Lega Nord avrebbe imitato. Sviluppa un movimento cooperativo perfetto. Leader europei arrivano in visita a nuclei di aggregazione, fabbriche, botteghe che resistono ai centri commerciali, che arrivano con grande ritardo. Siamo anche l'ultimo paese ad avere distributori self-service. Il vecchio sindaco si oppone ai non luoghi che sfuggono al controllo. Vuole sapere chi calpesta il suo comune. Vuole sapere la risposta alla domanda di sempre dei nostri vecchi. Di chi sei figlio? Questo paese esibisce le qualità e i tic nervosi della provincia economicamente voluta. Enfatizza la politica del fare, impone un pensiero unico, respinge con vigore le interferenze che generano inutile negatività. Il corrispondente locale del quotidiano più diffuso è anche il responsabile dell'ufficio stampa comunale. Le cattive notizie che riguardano gli indigeni vengono rimosse. L'isola felice del riformismo socialdemocratico va preservata nella propria serena illibatezza. Scorrendo i titoli del bollettino comunale troverete solo conferme di questo stato di grazia. Gli studenti ricordano le vittime dell'Olocausto. Aggiornata la carta dei servizi dei nidi comunali. Scuola di solidarietà. Decoro aree verdi. Ora che ci sono le guardie volontarie. La protezione civile spegne le 15 candeline. Strade sicuri per i comuni con la targa blu. Pergamena ai commercianti storici. Pulmino amico. Festa delle nozze d'oro e di diamante. Cittadella Sport Superstar 2011. Volontariato, inestimabile risorsa. Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri. Fino a marchio denominazione comunale per la nostra Nespola. Noi indigeni della cittadella dovremmo essere orgogliosi, rivendicare una superiorità sugli abitanti dei comuni confinanti, in cui il sottosviluppo economico ha finito per devitalizzare la comunità che si riunisce solo nei giorni delle feste dell'unità estive. Il nostro rappresentante sindacale rimarca questa evidenza e gli operai extracomunali, oltre che prendere la tessera del sindacato centrale, dovrebbero ringraziare. Noi siamo la razza eletta. State pensando che verreste a viverci nella cittadella? Che qualunque posto in cui vivete o di cui avete notizie è peggiore? Nelle migliori delle ipotesi, almeno simile? Voi adesso mi direte che solo un orrido freak, un ingrato, un inguaribile asociale potrebbe trovare nauseante e opprimente l'aria della cittadella dorata. Solo una scoria tossica come me potrebbe odiare questo paradiso di socialdemocrazia avanzata. Direte che sono nato storto, caricato a energia negativa, che il mio organismo non tollera la normalità, che non sviluppa sani anticorpi provinciali. Che senso ha cercare muffe e ossido in ogni piega del vivere sociale? Se intervistati, non ce la farete a dire che ero un bravo ragazzo. Insomma, almeno direte che ero uno strano, uno che non si faceva mai vedere nei bar di piazza o seduto sulle panchine davanti alla piscina, che da uno come me se lo sarebbero aspettato, un gesto criminale. Il mio siluramento ebbe una sua logica. La mia buona volontà, le mie capacità di recitazione non potevano ingannare gli assassini del nuovo management. Sono negato per tutto ciò che è pratico, non ho alcuna manualità, fatico a pelare un frutto. Ansia e crisi di panico mi assalgono con una certa frequenza. Sono uno standard della malora, inadatto alla vita aziendale. La tipologia di essere umano capace di disquisire per ore sui nuovi registi tedeschi e che, davanti al cofano aperto di un'auto, non distingue alcuna parte meccanica. Il tipo refrattario a ogni incombenza burocratica, sempre impacciato e intimidito da banche, assicurazioni e altri ladri in associazione. Il mio rifiuto per i numeri, esibito fin dalle scuole elementari, la mia incapacità nell'utilizzo di qualunque tipo di utensile. Con queste tristi caratteristiche, come potevo ingannare ancora per molto i sacerdoti? Come potevo continuare a spacciarmi per tecnico? Quelli come me, per qualche deviata ragione, si sentono superiori agli altri esseri umani, solo perché leggono libri, frequentano cinema, teatri, concerti o hanno qualche informazione che i telegiornali di regime ignorano. Troppo poco. Un cazzo di nulla. Si rivendicano sensibilità confuse, competenze non ben esplicitate nelle materie umanistiche. Difficilmente si sceglie di entrare in conflitto aperto con la razza avversa, ritenuta indegna di essere affrontata e riconosciuta. I malumori sbocciano a mezze frasi, spezzoni di ragionamento che si staccano dal cervello come iceberg animati dai cambiamenti climatici. Silenzi rancorosi. Non ci sono punti fermi condivisi con gli altri abitanti di questo posto. Alcuni parlano di personaggi televisivi come parlassero di familiari o vicini di casa. Li fisso, cupo, cercando di renderli partecipi del mio disprezzo. Le femmine di questo luogo mi riconoscono come un'entità scalena e mi scacciano. Ma senza tutto questo, non so immaginarmi. Il rigore degli input della nostra multinazionale non è puro nella sua crudeltà. La meritocrazia è al passo incerto. Misteri inesplicabili aleggiano nei corridoi e negli uffici. Silenzi e leggende. Gente data per spacciata all'inizio della campagna di smaltimento impiegati in esubero si è salvata seguendo misteriose correnti salvifiche di sorgente incerta. I protettori, i dirigenti negli anni sono cambiati. Come hanno potuto tenere intatti i fili delle coperture? Difficile rispondere. Inutile costruire ipotesi fantasiose e indimostrabili. Meglio descrivere le evidenze, i fatti. Chi non faceva un cazzo nel 1988 non fa un cazzo nemmeno 20 anni dopo, nonostante le balle del restyling generazionale e della new wave aziendale. Altri disgraziati sono stati colpiti dal fuoco delle risorse umane senza ragioni logiche, incentivi al licenziamento, pressioni implicite per lasciare l'azienda. Oppure, come nel mio caso, a umilianti ridimensionamenti di livello. Io oggi sono un operaio redento, ero un borghese e mi hanno relegato in questo gulag per una rieducazione che non meritavo. Sto tra la feccia, nel quartiere peggiore. Le impiegate vi si avventurano, stazionano a loro rischio alla macchinetta del caffè, ma parlano solo tra di loro. Fissano il cucchiaino di plastica, hanno il passo veloce e il culo dritto. Si sono costruite un'identità, rivendicano l'appartenenza a una casta. Conducono esistenze tetre, identiche a quelle delle operaie. Io sono un mostriciattolo e non avrei alcuna speranza sentimental sessuale, nemmeno se lavorassi in ufficio. La mia emotività pseudoculturale, nutrita di libri, musica, politica e cinema, non le fregherebbe. Posso permettermi battute sul culo, coltivare fantasie rabbiose con altri infelici nella mia condizione. Value stream, ovvero il flusso dei valori, un sistema nato negli anni Ottanta in Toyota, finalizzato all'abbattimento degli sprechi nei processi produttivi grazie anche alla visualizzazione di mappature grafiche che sintetizzano il processo di trasformazione del manufatto. Il team del Value Stream individua gli uomini su cui puntare nel tempo, una elite che gestirà le mutazioni per grandi step da realizzare in poco tempo con effetti traumatici. Per gli altri il destino è segnato. Non credo che esistano vere e proprie logge, se pensiamo a cappucci neri e riti di iniziazione. Ma se unisco i puntini dei dipendenti intoccabili ed eterni, se faccio rilievi e statistiche sui gruppi che si coagulano alle macchine del caffè o nello stesso tavolo immensa, si definisce il profilo di un disegno visibile solo dall'alto. Nulla è mai casuale. Vincenti e perdenti sono identificabili, si frequentano solo se costretti. Vorrei avere accesso ad intercettazioni telefoniche, scaricare anni di posta elettronica per visionarla con pazienza. Ma non ho frequentato le stanze del potere. Ci sono procedure denominate scrivania pulita che danno precise direttive su come tutelare i segreti aziendali. Vedo ombre ovunque. Vedo corporazioni al posto di collaborazioni. Vedo una spietata guerra di sopravvivenza che potrebbe avere un senso se realizzata sulla valutazione delle reali capacità dei soggetti. Si riproducono solo gli animali più resistenti e attrezzati, ma il gioco è truccato, sempre. Ho visto i più grandi cialtroni e nulla facenti del mio reparto avanzare inesorabilmente di grado. Oggi entrano a orari molto flessibili. Hanno il telefonino aziendale incollato all'orecchio e sorridono mentre guidano gruppi di visitatori e spiegano le modalità produttive delle nostre linee di produzione. Forse domattina nessuno si accorgerà di anomalie e tutto scivolerà liscio. Nessuno mi rivolgerà la parola. Le operaie saranno un po' eccitate per l'ultimo giorno lavorativo della settimana e tramortite per la stessa ragione. Pelle grassa o disidratata, capelli indomabili, trattenuti da mollette in attesa del restyling del venerdì sera, di uno shampoo miracoloso. Nel ventre della linea borbotteranno tra loro progetti per il weekend, veglieranno ipotesi, inutili, come mai potrebbero immaginare. Alleggeranno nomi di ristoranti e discoteche, nomi di uomini, fidanzati, mariti, amanti, figli, suoni che mi arriveranno a folate. Io sarò più silenzioso del solito. Cercherò di mantenere un profilo basso, tutto regolare, in genere non sono certo un tipo socievole. Ho sempre faticato a commentare le partite di calcio con gli operai maschi o a fare battute a sfondo sessuale con le operaie femmine. Qualche anno fa arrivò in linea una ragazza ucraina, Irina. Non era brutta, ma nemmeno una gran bellezza. Però era alta e bionda e ci teneva molto a far circolare maldicenze sulla propria vita sessuale. Le alimentava con gran diletto. Le colleghe in linea tenevano a macerare i suoi racconti per alcune ore, aggiungevano qualche spezia e poi li spacciavano a noi maschietti. Irina mi odiava perché ad ogni suo passaggio non commentavo il suo culo, le sue tette o qualche altra parte anatomica. Io solo mi permettevo questo affronto. Non era per nulla attratta da me, non avrei mai avuto alcuna speranza, ma mi odiava perché non rispettavo la mia parte di uomo arrapato. Le ucraine vanno pazze per il trash della Riviera Romagnola. Irina piantava in asso il marito italiano e andava a ballare a Milano Marittima. Amava tutto quello che era colore e luce, sovraesposizione. Il colore preferito delle ucraine è il fucsia. Sembra incredibile. Con i ragazzi italiani fanno discorsi in cui l'aspetto sessuale e quello economico collimano pericolosamente. I bamboccioni sono spiazzati, non sanno come reagire. Il disincanto di queste ragazze è amaro. La loro allegria è artificiale. Quel surrogato di serenità è stato pagato a un prezzo che conoscono solo loro. Una volta con Irina evocai il comunismo. Invece, avrei fatto meglio a chiederle se le piaceva fare i bocchini. Irina mi sputò in faccia, senza una parola. Non c'erano testimoni. A volte rideva delle mie mani. «Mani piccole, cazzo piccolo!» rideva. E sputava se provocata. Parlare di comunismo a livello dialettico era un lusso che Irina non aveva potuto permettersi. Cercavo di spiegarle quanto fosse malata la nostra democrazia, dei malanni del consumismo, di che razza di mafioso mascalzone fosse il nostro presidente del Consiglio. Ma lei non ascoltava. Si distraeva, non capiva, era molto infastidita. Il comunismo per lei era solo sinonimo di tristezza. La sua cura poteva essere solo Milano Marittima e i suoi locali. Irina vestiva come le femmine degli ABBA. «Berlusconi mani grandi, cazzo grande», mi diceva, e rideva. Doveva farsi rinnovare il contratto, anche se cercava di meglio. La catena di montaggio le stava stretta. Non era venuta dall'Ucraina per lavorare in fabbrica, non era rassegnata come le indigene. La sua esuberanza era biasimata dalle colleghe, che la invidiavano. Faceva notizia, agitava il mare morto di donne e uomini che sarebbero nati e morti nello stesso paese padano senza storia. Voleva trovare un posto da traduttrice o da standista al Motor Show di Bologna. Voleva continuare a combattere. Il giorno che mi sputò in faccia le avevo detto che a Cavriago, un comune emiliano, c'era una statua di Lenin. Provai a masturbarmi in bagno. Il mio immaginario saltellava tra la Piazza Rossa e la discoteca Pineta di Milano Marittima. Mi si ammosciò quasi subito. Uscito dal bagno, volevo dirle che a Carpi, via Marx, a un certo punto, diventa via Lenin. Irina era sparita.